Giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del ser. In diretta dagli studi di Radio Centrale 97.5 a Termini Imerese, Andrea Massara e Antonio Panzica, da tre stagioni, presentano L'Onda in Onda. Hey! Siamo tornati di nuovo con DJ Californiano, che ci aveva salutato la scorsa settimana, piccola pausa, ma avevamo avuto Fidelio, insomma. Esatto. Come state, amici miei? Com'è estate? Ma com'era estate un attimo fa, come direbbe una canzone? Esatto, perché poi in realtà oggi c'è brutto tempo. Non si sa perché si è buttato questo inverno improvviso. Salutiamo subito chi ci ascolta, i fedelissimi, come Domenico Massaro, posso dirlo il cognome perché è un tuo omonimo. È vero. Questo autorizza a violare la privacy di un normalissimo cittadino. E ricordiamo a tutti quanti che chi vuole ascoltarci può sintonizzarsi ovviamente su 97.5, ma se ci sta ascoltando già lo sa dove è la frequenza, ovviamente. Quindi mi sembra anche su internet. Esatto, oppure su internet in streaming sul sito di Radio Centrale, www.radiocentrale.it, o se non riuscite a ascoltarci perché il player non parte, www.politaia.it, e poi cliccate su Ascoltaci in radio. Potrete anche vederci tramite la webcam. Ci scusiamo per gli studi, lo studio della nostra spalle. Mi sento un po' in paradiso. Esatto, guarda l'immagine, è molto bianco, cioè, perché se non ci fosse la scritta Radio Centrale veramente saprebbe di San Pietro. Esatto, perché stiamo ristrutturando gli studi, l'acquario verrà presto chiuso, è totalmente terrorizzato, quindi l'acquario perché c'è il vetro, sì. E quindi noi siamo dei pesci dentro l'acquario. Inoltre potete interagire con noi tramite il profilo Facebook dell'Onda in Onda, all'indirizzo facebook.com/ondainonda. Slash, ti è piaciuto? Sì, slash, l'hai detto molto bene. E per chi volesse riascoltare la nostra puntata, o per chi volesse querelarci come il l'esimio o la fata, ci ha querelato? Cioè, no, ancora no, ancora ci querela, ci querelerà. Andate all'indirizzo ondenonda.blogspot.com, se non sbaglio. Ovviamente salutiamo anche Sonia che ci sta ascoltando, forse anche la doppia Sonia, perché abbiamo Sonia di Termini e Sonia di Palermo, che però è in trasferta a Peschiera del Garda, quindi ci salutiamo. Ascolta anche Tony, che ci sta dicendo che Caparezza gli andava benissimo, ma non ti preoccupare Tony, perché ti metteremo la tua canzone preferita del nuovo album di Caparezza, e non diciamo il titolo, più avanti, quindi seguici, perché finché non te la mettiamo tu dovrai ascoltarci. Esatto. Lui vedi che si eccita, tu gli dici fino a quando non te la mettiamo tu resta qui. Tony si eccita, Tony è un grande amico termitano, ma salutiamo chiunque ci stia ascoltando. Settimana densa di eventi, come direbbero i grandi DJ radiofonici. Intanto Andrea tossisce, la tosse. Anche i grandi DJ tossiscono, quindi te la perdoniamo Andrea. Intanto suona anche il citofono, vabbè, forse ci ha raggiunto un'amica, non so se devo aprire, tu che dici? No, lasciamola fuori, vabbè, apri, fai quello che vuoi, e qui è tutto un po' casereccio, sì, perché sì, il sì, nostro sì, regista sì, se n'è andato, va bene. Sì, sì, siamo. Intanto io lancerei, dato che probabilmente sta arrivando la nostra amica a farci compagnia, una notizia ad ultima ora che è... Quando Andrea parte così sparato e ha le labbra chiuse, fallo vedere agli spettatori della webcam, non ti coprire col microfono, mi fa un po' paura, è sì, molto sagace. Vai, ma tu sai Andrea, cos'è la boza? La boza. Quindi si dice, ma guarda la nostra amica, che bei tratti femminili. Esatto. È arrivata la signora Positive Vibration. Esatto. La boza è una arriva dalla Bulgaria, non è una prostituta. Ci metti il sottofondo per favore, che dovrebbe essere. Perfetto, lascialo così. Lascia così. Ed è una birra che letteralmente fa crescere le tette. Perché ho pensato busa, boobs. In esatto, effetti, esatto. La birra che fa crescere le tette ora esiste per davvero. Si chiama busa, non so come si pronuncia. Io so che tu la userai però per innaffiare un'altra parte. Esatto. E arriva direttamente dalla Bulgaria. Originariamente la bionda era stata creata come cura per le donne con problemi di allattamento. L'azienda che la produce ha pensato bene però di metterla in commercio, e nei pub è stato subito grande successo. Centinaia di donne hanno voluto provare la miracolosa birra, rimanendo è ripartito su miela. Sì, esatto. Miracolosa, rimanendone piacevolmente soddisfatte. Risultati strabilianti, e seno cresciuto anche di ben due taglie. Quindi invitiamo tutte le ragazze con... Io ne conosco una di Termini, però non posso nominarla. Salutiamo Martina. Sì. Vabbè. Vabbè, che insomma potrebbero andare a acquistare questa birra ed essere ecco il solito maniaco che propone questa birra. Ecco che intanto il regista caccia via Positive Vibration che era il buon vecchio Claudio, proprio ci è andato con tono perentorio e col ditino teso, tu vai via mio esatto. caro. Ciao Totò, salutiamo Totò che ci ha raggiunto. Perché fate sempre i cazzoni tutti e due? Ma perché questa è una puntata di cazzoni, anzi che non ho annunciato che siamo il post ribolo di Radio Centrale. Ma lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Tutti. Vabbè, facciamo una cosa prima di dopo questa facciamo introduzione. Facciamo partire un bel pezzo. Esatto, dopo questa introduzione, questo sottofondo, un ci ascoltiamo. Pezzo, un aspetta, bel pezzo. I pezzi li ha scelti Andrea, quindi insomma, belli proprio. È un bellissimo pezzo dei McFly, si chiama Stay With Me, che è una cover di Rod Stewart and the Smiley Faces e noi ve lo facciamo ascoltare. Buon ascolto. E siamo tornati in diretta dopo l'ascolto di questo gran pezzo, scelto da quel gran pezzo del mio amico, come il gran pezzo dell'Ubalda, non so se ricordi. Tutta nuda e tutta calda. Tutta nuda scalda e tutta calda. Quel gran pezzo dell'Ubalda. Esatto, è bello perché intanto il regista non sente cosa stiamo facendo e quindi siamo liberi. Ma andiamo con i primi argomenti caldi della settimana, è bello quando il regista ci dà un sottofondo. Sì, sì, sì, io amo i sottofondi che ci dà Toto. A me piacciono moltissimo. Va bene, come il campeggio dell'Ubalda, dicevamo, notizie calde. Sì, quindi... notizie calde. Io partirei, ad esempio, non so se hai saputo che c'è stata una rapina in banca in America, non ricordo bene lo stato, è successo che praticamente un signore che si trovava nella banca ha avuto la pistola puntata addosso e gli hanno chiesto ovviamente di dare i soldi. Intanto è arrivato mio padre, queste visioni oniriche. È spuntato mio padre che è in webcam, quindi tutti potete vedere mio padre che si gratta le ascelle su radiocentrale.it. E stavo dicendo, quindi si trovava in banca, gli è arrivato dietro un rapinatore con tanto di passamontagna che gli intima di dare i soldi, così come tutti quelli che erano lì. Lui, siccome la settimana prima aveva subito uno scherzo quasi identico da un suo amico nella stessa banca, furbo l'amico in ogni caso, furbissimo, non so come non l'abbia arrestato, almeno per procurato allarme. Non lo so. Ti ho fottuto, giurisprudente del mio Kaiser. È diverso. Comunque l'ordinamento americano è diverso da quello italiano. In Italia tranne te, lo sanno tutti tranne te. Poi ci sarà. Più tardi intervistiamo Berlusca, gli voglio chiedere questi ultimi. Ci sarà proprio questo pezzo. Napolitano. No. questo pezzo questo napolitano. E tu lascia stare. E niente, lui credendo che fosse uno scherzo rideva. La gente era terrorizzata attorno a lui e lui rideva tranquilli. He's a friend of mine, he's a joke. Quando poi ha capito quello uscito sparando i colpi in aria, è sbiancato letteralmente, perché non se lo poteva aspettare mai che era una vera rapina. Scusa, ma ti sei portato la guardia d'onore stasera? Ma sì, è spuntato dal nulla mio padre. Salutiamo mio padre. Buonasera. Per la prima volta in radio. Buonasera. Vuoi dire buonasera. Almeno buonasera agli ascoltatori? Lo urli. Ma tu gli dici lo urli a tuo padre. Ma intanto passa Peppe che mangia pezzi di pollo. Questa radio sta diventando sempre più un po' stribolo, già lo era. Va bene. No, quindi diciamo a tutti i nostri radioascoltatori che se volessero raccontarci un aneddoto simile, quando è capitato, insomma, a tutti di aver fatto uno scherzo finito male, o di averlo fatto o e di averlo non l'hanno subito. Capito, o di aver subito magari una cosa che era vera, l'hanno creduta uno scherzo. Insomma, scriveteci su facebook.com/onda, visto che ci siete diversi. E se non siete ascoltando. Nostri amici, aggiungeteci e noi vi accettiamo. No, se non siete nostri amici, io me ne fotto, li mando a colpa. No. Sì, dai, perché se non ci hanno ancora aggiunto dopo 3 stagioni, insomma, veramente non meritano la nostra attenzione. E non voglio farvi arrivare alla 4ª, che poi sarebbe una sarebbe una liberazione per il mondo fortuna, intero. Una per fortuna. Il mondo intero. Va bene. Io direi che allora c'è un nostro ascoltatore che ci chiede una cosa che era veramente già in programma, ovvero di leggere una poesia che insomma è uscita oggi o ieri, se non sbaglio, facciamo una strofa l'uno raccontata. No, scusa, ormai me la fai tutta la tu. No, tutta. Ma è uno schifo. Io attenzione, ma prima dobbiamo discutere con un personaggio illustre che viene a trovare spesso in questa puntata. Tutti quanti si alzino in piedi perché sta per telefonare il presidente. Pronto, Napolitano. Pronto, buonasera presidente. E questo tempo è merda, non sto. Presidente! Ogni mercoledì lei distrugge la sua carriera. Ci stanno i cumulonembi. Sì, l'abbiamo visti. I cumulonembi. Sai perché si formano i cumulonembi? Le vorrei rispondere, non me ne fotto niente. Perché la corrente d'aria calda, no? Arriva su quello d'aria fredda e ci fa esatto. C'è no, infatti sono piatti come capito? Come quelle che devono bere la birra. La birra Buzz, esatto. Sono veramente preparato. Perché lei ci ascolta molto. Posso capire perché mi avete chiamato? Noi l'abbiamo chiamata, presidente. Lei arriva. Ho chiamato. Un inno. Ma qua irruisce. Ma scusi, qua arrivano oggi i genitori dei conduttori radiofori. Effettivamente c'era la guardia. La guardia d'onore è arrivata. Arrivato nato che mangiavo pollo. Ma lei che ne sa? Ma sì, l'avete detto. Ma voi. No, ma è radio, non si vede. Quindi sì, si ma può immaginare. Detto, se tu sì, l'ha detto, ma si immagina, non è vero. Presidente, non è vero. No, è una bugia. Io immagino che tu stavo a telefono quando lui ha detto che ci stava. È la magia pollo. Della radio. Noi possiamo dire anche di essere seduti sulle tazze d'oro. Però fondamentalmente non è così. Presidente, allora. Ma un attimo, lei ci ha chiamato, ma questa settimana è stata pregna di notizie, di cose importanti. Ma una più di tutte, insomma, ecco, sentivo già la mancanza dell'inno dopo, sì, tre secondi stava, mi sentivo quasi sentiva male. Prego. Diciamo una più di tutte, insomma, è stata una notizia che ci ha accompagnato in realtà per tutta questa stagione. Vai, Forca, guaglia, che guaglia. È quella delle nuove hanno tagliato le gomme a mia moglie. No. L'altro giorno stavamo attraversando la piazza do Quirinale. Non si gira una guardia, ma involontariamente la sciabola hanno tagliato le gomme. È rimasta a terra Clio. Mi dispiace, certo, cordoglio per sua moglie. Ma sei un animale. Lo vuole cacciare dalla radio questo cretino. Già ho provveduto più volte, non ritorna. A volte ritornano. Esatto. Ma tolte parole box. Stava chiedendo. No, stavo dicendo che una più di tutte è la notizia del giorno, cioè quella che due nuove ragazze hanno consegnato le loro memorie difensive per quel che riguardava le feste di Arcore. Sì, Chiara. Chiara è Paola e Paolo. Le coriste di Max Pezzali. Chiara e Paolo. No. Di Max Pezzali. Sì, erano coriste degli 883 che poi sono diventate. Questo è Wikipedia dipendente. Ragazzi, voi non lo sapevate. Ma è lui così, è preciso. Balbetta, ma è preciso. Sono Chiara e non lo è lo scuro. Scuro. Io Chiara e lo scuro. Esatto. Ma hanno raccontato appunto che durante le serate una delle cose che animavano le serate era appunto durante la cena Berlusconi è uscito una statuetta. La statuetta di Priopo, esatto, che ha fatto passare alle ragazze mimando una fellazio e una, diciamo, un bacetto sul... No, a parte il bacetto, una fellazio e anche una... Diciamo la buzz. Olè. La spagnola. Esatto, la spagnola. Quando io ero con gli altri presidenti della Repubblica a tavola insieme c'era una cosa molto simile. Addirittura, presidente. Sì. Non so se Totò Scaccia si ricorda, se ne parlò ai tempi, eravamo seduti tutti insieme. Loro cos'è che baciavano? La statua di Priapo. Esatto. Noi baciavamo la statuetta degli Oscar. Come la statuetta degli Oscar? In onore a Oscar Luigi Scalfaro. Ognuno dava un bacetto alla statuetta e c'era questa forma di rispetto. Presidente, lei la vediamo provata dal 150esimo. Sono ancora molto molto stanco. Ma attenzione, c'è un'altra chiamata sull'altra linea. Vediamo se. Tre canzoni. E lui? Sì, abbiamo un ospite d'eccezione che si annuncia così, il Presidente della Repubblica con... Arriva così di punto in bianco. Il Presidente della Repubblica si preannuncia con l'inno d'Italia di Mameli, lui invece viene avanti così con il suo buon amico Apicella. Apicella? Attenzione, sì, sentiamo. Dovrebbero cominciare prima o poi. Se tu non metti le cose, come vanno? Potresti staccare un attimo questa vaccata. Questa è la canzone per cui mi sono mantenuto alla Università della Sorbona. Sembrano l'attacco è dei Google Bordello. È vero, è gitano. Todò. Aspetta, scusa, facciamolo sentire. Sensazionelle? Questo è Berlusconi che canta con Apicella. Mi dispiace che il padre del conduttore qua fuori non possa venire. Io voglio farvi notare la somiglianza. È il quarto, Totò, se proprio vuoi saperlo. Voglio farvi notare la somiglianza con quest'altra canzone dei Gogol Bordello. In mancanza dei cavalli hanno a correre i scecchi. Bellissima, devo dire, molto. Dove l'hai trovata? Molto fine. Non posso dire. Perché invece tu metti magliette di Louis Vuitton con la L e la V. Possibilmente. Abbiamo fatto pubblicità a Louis Vuitton, ora dobbiamo dire Prada, dobbiamo dire tutti, vabbè, attaccate al Kaiser. E volevo dire una cosa un po' più seria rispetto ai nostri soliti argomenti. Non so se ricordate la storia di quel ragazzo, il povero Norman Zarcone, che si suicidò purtroppo buttandosi dal palazzo di lettere, se non sbaglio. Sì, dall'edificio dove, dall'edificio di lettere, esatto. Come lui lasciò una lettera parlando della sua protesta estrema contro il sistema che non gli garantiva affatto un posto di lavoro, nonostante il massimo dei voti di laurea, il massimo nei master e tutto quanto. Lui non ha visto un futuro roseo davanti a sé, purtroppo, magari aveva anche altri problemi suoi, ma è stata la goccia finale. Allora i suoi amici hanno scritto un pezzo che si chiama proprio NZ su di lui, non ve lo possiamo passare, però ve lo volevo annunciare, perché se vi fa piacere loro vorrebbero venire a trovarci qui in radio e suonarlo anche dal vivo in acustico. Ah, sì? Sì, sì, vorrebbero venire proprio da noi per la prima volta, non l'hanno ancora presentato in nessuna radio. Si chiama NZ, che sono le iniziali di Norman Zarcone. Va bene, dove possono trovarlo? Su internet? Non lo so se è già su internet. I ragazzi si chiamano Gabriele e Giovanni, sono amici molto intimi di lui. Magari cercando su Google o su YouTube, se hanno caricato come video con parole o immagini, troveranno. Si chiama NZ la canzone, iniziali di Norman Zarcone. E quindi mandiamo anche un ricordo a questo ragazzo che purtroppo è andata a finire come è andata a finire. Speriamo che ci siano anche altri modi per lottare. Ne conviene, Andrea? Sì, penso proprio di sì. Comunque la notizia si trova scrivendo su Google NZ Norman Zarcone, appunto, è la prima notizia, quindi potete Perfetto, la scriveremo anche sul nostro profilo di Facebook, che lo ricordiamo ovviamente facebook.com/ondenonda. E tra l'altro si è ripristinato il collegamento, quindi potete continuare a parlare, contattarci con... anzi contattateci, va bene? Va bene, cambiamo decisamente argomento. Sì, anche perché Norman era una persona abbastanza divertente, io l'ho conosciuto, una gran persona. Quindi vogliamo ridere e parliamo di Mubarak. Ah. Vabbè, no, non so se avete saputo che Mubarak ha avuto l'interrogatorio, no, per rispondere di quello che è accaduto durante gli scontri, e praticamente ha avuto un infarto, ma a quanto pare perché ha scoperto di essere cugino di Berlusconi. Ha avuto un infarto appena saputo la notizia. Non ci possiamo collegare con lui perché è in ospedale lì. No, perché ha sentito Berlusconi che ha detto: ho pagato il rubi. Sì, sì, ma che mica è famoso anche l'egiziano come modo di dire. E a proposito di egiziano, ricordiamo che il buon Peano dalle 22:30 a mezzanotte, perché lui si chiama egiziano di cognome, non Ano, condurrà Feedback, il programma sul rock, così porco e sporco come piace a tutti. Senti, ma tu che ne dici di collegarci con Fidelio? No, un attimo, io vorrei... Non puoi dire no, la domanda era retorica, devi dire sì, ci sto. No, Fidelio arriverà fra un pochettino, perché c'è una cosa che io di cui dovrei parlare. Ah sì, caro, allora dimmela. Che è una notizia riguardante Lori del Santo. Lori del Santo. Allora, Totò, per favore, sottofondo non triste, ma molto più triste, per piacere. Lori del Santo oggi ha... Ce l'hai, Totò? Perché l'inno della Lega Nord remixato? Perché alla con Fossi che ti guarda tipo Mago Merlino, no, per piaceva. Però non con la poesia non ci sta molto, dai. Lori del Santo ha... Totò, dedicato... l'hai saputo di Lori del Santo quello che sta dicendo Andrea? Oggi mi ha mandato un messaggio, ma non ho potuto vedere te l'ha mandato Lori del Santo, ti ho detto guarda che ho fatto una vaccata, valla a guardare. Prego, Andrea. Sì, no, praticamente Lori del Santo ha... dovete scusarmi perché il computer ha fatto le bise, quindi stiamo cercando abbassi di ripristinare... Abbassi un po' il sottofondo, Totò, sta diventando un soprafondo. Stiamo grazie. Cercando di ripristinare tutti i collegamenti. E ha creato i verbi adatti. Vabbè, sempre verbi adatti, sempre asta, sempre il verbo. Vai. Ha dedicato una poesia al presidente. Mi mette questa colonna. No, va bene. No, guardavo l'altra cosa dietro. Comunque, presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Non si capisce perché l'abbia fatto. Andrea, se la devi recitare assolutamente almeno all'altezza della situazione. Io sarebbe stato meglio farvi sentire. No. Recitata no, no, no, no, meglio noi. Meglio io noi. Voglio provarci. Andrea, mi raccomando, i fiati. Sembra la dizione. Andrea, dizione con la O chiusa. Sembra un po' più che altro. E facci più calmo, calmati. Sì, sì, no, voglio calmo, dirvi calmo. Che voglio dire? Voglio dirvi. Che sembra un pochettino scopiazzata dalla canzone di Giovanotti. Quale canzone di Giovanotti? Perché si chiama, allora, visto che carino come ha detto per te, qua c'è pubblico, titolo. Salutiamo Peppe, l'uomo del pollo, che ha detto sì, vai. Un attimo, perché aspettiamo che si aprano i miei collegamenti. Questa poesia si intitola proprio Per te e riprende in certi versi, se poi lo noterete, appunto una leggera scopiazzatura della canzone di Giovanotti. Io invito mio padre, che è qui in sala con noi, ad ascoltare. Allora, la canzone recita. Sì, però parla al microfono. Tu che pensi, che immagini, tu che trasformi la realtà in sogno. Esprimi il desiderio di esserci, di resistere. Tu, che hai voglia di dare, vedi un universo senza argini e confini, un mondo che crede nel progresso. Tu che ami, tu che semplicemente sei. Dedicata da Lori del Santo al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Io non ho veramente parole, quasi trattengono le pernacchie in sala, ma non capiscono la levatura. Tu che ne pensi? Di cambiare questo sottofondo e mettiamo mentre... subito un bel pezzo e lanciamo i... Cosa lanciamo? Ma non si sa, perché Totò mette sì, se ne va per i fatti suoi. Tra un po' metterà che te la pongo. Ah, questo è un bel pezzo, senza titolo. Sì, te lo dico io, qual è il titolo di questo pezzo, perché in realtà... Perché c'era, non ce l'ha titolato. James Brown, Give It Up, Turn It Loose in the Jungle Groove Remix. Ci ascoltiamo un pochettino di funky. E siamo tornati in diretta dopo questo gran remix di James Brown, mio padre, tra l'altro. Ma non è un remix, è un pezzo. È un pezzo. In The Jungle Groove Remix. Ho detto una gran cazzata. Come direbbe Luca Giurato, scusate, mi è scappata, non volevo. Abbiamo ascoltato James Brown, vero? Chiedi scudo, per favore. Io chiedo scudo, il muto di Merlino. Buonasera, benvenuti a tutte le donne, buon inizio di fine se... Ma che sto dicendo? Mi sto confondendo, Luca, cosa dici? Aspetta, ce n'era una bellissima. Uno piacere, il grande piacere ospiti, di avere ospiti. Questo era favoloso, un virtuosismo. Come quando c'era il cane con il padrone del cane. Lampino e Giorgio. E lui fa, vabbè, guardate che bello questo cane Dario. Allora arriva Giorgio. Lei. No, il cane è Giorgio. E lei fa, ma il cane non si chiama Giorgio. Fa, il cane non si chiama Giorgio. Fa, no, come si chiama? Lampino. E il padrone si chiama Giorgio. Ah, io pensavo il contrario. Cioè, lui pensava che il padrone si chiamasse Lampino e il cane Giorgio. L'unico uomo al mondo. Comunque qua mio padre è andato a vedere 30 anni fa James Brown a Bagheria allo stadio. Direi anche sti cazzi, però che fortuna. Il gran maestro. Il gran James. Beh, mancano solo 5 minuti alla fine di questo postribolo. E noi vorremmo sentire, come chiusura di puntata, metti quindi un sottofondo, sai, molto sull'internazionale russo, il nostro, mio padre mi chiedeva chi è, Fidelio Cusumano. Vogliamo un attimo ricordare chi è Fidelio Cusumano? Non è della cantina dei vini Cusumano, ecco, lui già è entrato. Sta entrando nella sua, come dire, nella sua mentalità. È un ragazzo che si occupa di centri sociali e di, ricordiamo, Regalcioffoli. Io sono quindi, Fidelio Cusumano. Ecco che è arrivato Fidelio. del collettivo Giancarlo Mattello. Tu hai detto Cusimano, invece nel mio stato sociale, appunto, io voglio chiamarmi come il mio nome che mi hanno dato i genitori, che si chiama Cusimano. Del collettivo Giancarlo Mattello, ricordiamo Giancarlo Mattello. Scusi, ma i suoi genitori la... Sì, buonasera, allora, buonasera, benvenuto un'altra volta. Appunto, Fidelio Cusimano del comitato del collettivo universitario Giancarlo Mattello. Abbiamo capito chi sei, vorremmo andare avanti. I suoi genitori cosa ne pensano della sua passione politica? I miei genitori sono morti nel 68. Ah, addirittura, durante le rivolte. Sì, e mi hanno dato alla luce. Allora, lei quanti anni ha, scusi? Io ho 20 anni, mi hanno dato alla luce dopo. Quanti anni ha, scusi? Perché il partito... Ma non è possibile! Sono morti nel 68. Ma scusi, nel 68 sono 43 anni fa. Sono, sono complotti della stampa. Ma che complotti? Il giovedì non esiste, voi non lo capite. Perché, come giovedì non esiste? Quindi domani niente, domani io non vado a fare nulla. Cioè, giovedì e la Basilicata non esistono, sono complotti della stampa. Il giovedì fascista c'era. La Basilicata però ci credo. La Basilicata non esiste. Sono solo quattro masti a Matera. Esatto, nessuno ha mai visto la Basilicata. Io vorrei aprirvi gli occhi. Il collettivo Giancarlo Mattello si batte da anni per aprire gli occhi appunto su questo problema. Intanto c'è mio padre emozionato per Giancarlo Mattello. Giancarlo Mattello, un grande compagno ucciso in Spagna da poliziotti. Va bene, senta, ma Roccapalumba che si dice? Come va? Non è Roccapalumba. Ah, scusi, Regal Cioffoli. Io sono Fidelio Cusimano del collettivo Giancarlo Mattello di Regal Cioffoli. Abbiamo capito. Di Regal Cioffoli. Ma sapere che si dice a Regal Cioffoli? A Regal Cioffoli si fanno tantissime iniziative. È successo avuto la proiezione del film. Ecco, l'altro volta avete visto il film I proletari all'IKEA. Noi stiamo facendo una bellissima iniziativa che non si vedeva da tempo in Italia. C'è lui che sta morendo, non lo vedi, ma lui qui è disintegrato dalle risate. Stiamo facendo un'iniziativa che appunto, se mi fate parlare nell'etere, perché l'etere è pubblico e io sono una persona pubblica, e vorrei dirvi che noi stiamo facendo un'iniziativa stupenda che è appunto... Ma quindi lei ha il profilo Facebook di personaggio pubblico? No, io non ho Facebook. No, ma lo chiediamo proprio. Io ho Comunist Book. Vorrei dirvi Comunist Book. Social network. A Regal Cioffoli c'è una rete privata e si chiama Comunist Book. Comunque noi stiamo facendo... Come si chiama, scusi? Comunist Book. Ah, Comunist Book. Del collettivo Giancarlo Mattello. Ma l'abbiamo collegato solo lei, praticamente altri due o tre sfigati come lei. Io e i familiari di Giancarlo Mattello. Quanti sono gli iscritti? Gli sfigati quanti sono? Al circolo Giancarlo Mattello. Tutta la città di Regal Cioffoli sono ben 12 persone. Mezzo paese, una dozzina, che sono 24, esatto. È più un anziano. Ma le uova infatti ce le porta solo uno e le distribuisce. Perché a la gallina sono due. Dopo quindi questa dovremmo buttarlo fuori comunque, perché la gallina, sai, la dozzina di uova. In ogni caso, senta, il prossimo film, perché stiamo chiudendo. Vorrei dirvi che noi stiamo facendo questo cineforum. Abbiamo proiettato di Saverio Brambilla, questo regista famosissimo. Abbiamo proiettato i proletari all'IKEA. Domani invece proietteremo un bellissimo cortometraggio di 67 minuti che si chiama un cortometraggio di 67 minuti che si chiama Marx si è fermato a Regal Cioffoli. Bellissimo, quindi c'è anche l'attualità che entra nel Marx in qualche senso. Lui è totalmente cretino, è un ignorante, cioè. Non ha mai letto Il Capitale, io invece ce l'ho tatuato sulla schiena. Tutto il capitale. Ma la faccia vedere in web, no, ecco. Quanti anni quanto è grande sta schiena che ha? È tatuato in cirillico, quindi occupa meno spazio. In ogni caso, noi del collettivo Giancarlo Mattello ci teniamo a precisare appunto che Marx si è fermato. Ma è Metello o Mattello? Esatto, è Matello o Mattello? È Mattello. Se lo chiedono tutti qui. È Mattello, ovviamente non è Mattello. Ma in ogni caso vorrei dire che noi del collettivo Giancarlo Mattello abbiamo detto che questo nuovo cortometraggio... Va bene, noi ringraziamo Fidelio... Riguarderà... Ce l'hai uno sparo come sottofondo? Noi ringraziamo... Fidelio Cusimano del collettivo Giancarlo Mattello. Grazie Fidelio, grazie. Chiudiamo il microfono. Grazie. Allora, è finito. Quanto abbiamo? È finita. Quanto abbiamo? È finita tutta la vita. Abbiamo 5 minuti. 5 minuti, va bene, ma allora scusatemi, ci ascoltiamo. Abbiamo 5 minuti. Ah, ci sono le sorelle Scissone. Ma posso lanciare io. Ehi, direttamente dalle spiagge californiane, ci ascoltiamo I Don't Feel Like Dancing degli Scissor Sisters. Tutta per voi su Radio Centrale FM Italia. E ci sentiamo mercoledì prossimo. Vabbè, vi salutiamo allora. Buon pezzo. E a una settimana. Ciao.